America 24 di Mario Platero. When we come back here next year, we can have an agreement that will lead to a new member of the United Nations, an independent, sovereign state of Palestine. Living in peace with Israel. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Le riunioni delle Nazioni Unite, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite prosegue. Ieri ha parlato Barack Obama con una promessa, forse dovremmo dire un auspicio, quello cioè che l'anno prossimo ci sia un nuovo membro delle Nazioni Unite. E chi è questo nuovo membro? La Palestina. Obama ha dedicato gran parte del suo discorso allo sforzo per la pace in Medio Oriente, la piattaforma su cui si potranno risolvere una gran quantità di altri problemi, l'emancipazione dell'Iraq verso una democrazia matura, una stabilizzazione dell'Afghanistan, verso persino un recupero delle responsabilità di un paese come l'Iran. E dunque Obama ha chiesto agli israeliani di confermare il congelamento degli insediamenti che scadrà questo fine settimana, si è impegnato a portare avanti fino in fondo questo negoziato nei prossimi mesi, dando l'idea che questo potrebbe essere l'anno decisivo. Now let me be clear once more. The United States and the international community seek a resolution to our differences with Iran. And the door remains open to diplomacy should Iran choose to walk through it. But the Iranian government must demonstrate a clear and credible commitment and confirm to the world the peaceful intent of its nuclear program. Secondo capitolo, Iran. Qui Barack Obama tende la mano a Teheran, a Ahmadinejad. Dice la porta è aperta per poter continuare il negoziato. Certo, se non andrete avanti avremo nuove sanzioni, ma la porta del dialogo resta aperta. Che cosa ha risposto il presidente iraniano poco dopo? Dar muarrefi avamel hadese 11 september se nazariye elam shud. Nazar avval yek guruh terroristi besyar qudratmand va pichide ke az hame layehaye amniyati va ittelaati amrika. Il messaggio del presidente iraniano è stato: gli Stati Uniti hanno in qualche modo sfruttato, se non addirittura orchestrato, l'attacco alle due torri perché il loro sistema capitalistico non funziona e dunque dovevano in qualche modo distrarre l'opinione pubblica americana. Non certo una risposta gradevole a chi ti sta aprendo la porta del negoziato, e dunque la delegazione americana ha abbandonato la sala delle Nazioni Unite. È uno scontro vero questo, oppure è la solita retorica noiosa a questo punto, anche se ovviamente molto colorful, colorata, a tratti divertente, del presidente iraniano? Beh, forse dobbiamo propendere più per questa seconda opinione. La sensazione è che l'Iran sia pronto a un negoziato più serio per eliminare le armi atomiche, o quantomeno per garantire che il progetto di sviluppo nucleare sarà soltanto civile e non bellico, non per la produzione di armi. E a ridosso di queste conclusioni che ho raccolto, vorrei farvi sentire di nuovo Ahmadinejad in un intervento dei suoi, bizzarro. و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصادی آمریکا و سیطره او بر خاورمیانه و همچنین نجات رژیم صهیونیستی. È apparso con una Bibbia e con un Corano, ha detto: qui in America vogliono bruciare il Corano, ma noi rispettiamo i testi sacri, rispettiamo anche la Bibbia. Ha parlato di Gesù Cristo come uno dei grandi profeti, ha attaccato sì il capitalismo, ma ha detto anche che le armi nucleari sono la più grande minaccia per l'umanità. So America has joined with nations around the world to spur growth and the renewed demand that could restart job creation. We are reforming our system of global finance, beginning with Wall Street reform here at home. Barack Obama ha anche parlato di economia, ha incontrato la sua controparte cinese, il primo ministro Wen Jinbao, gli ha chiesto di rivalutare lo yuan, ma la risposta della Cina per ora è stata al teflon, al rimbalzo. Wen Jinbao ha detto che non se ne parla assolutamente, che una rivalutazione dello yuan porterebbe la rivoluzione in Cina, tensioni sociali, chiusura di fabbriche, un esodo di milioni di persone dalle città verso le campagne dove non c'è più lavoro perché ormai il mondo agricolo è cambiato. Dobbiamo crederci? Io francamente non ci credo. La Cina, Pechino, è guidata da un governo che controlla con il pugno di ferro qualunque aspetto della vita politica e sociale del paese e dunque una rivoluzione in Cina proprio non la vedo. La parte più ispirata del discorso di Barack Obama, la dignità è un diritto per l'umanità e dobbiamo trovare una strada per uscire dalla povertà. Aiuti dunque, ma aiuti come? Ci dovranno essere delle verifiche che i fondi donati dai paesi industrializzati vadano utilizzati in modo produttivo ed efficace soprattutto. Su questo è intervenuto anche il ministro degli esteri italiano Frattini che abbiamo sentito. Ministro, abbiamo visto che c'è una difficoltà generalizzata nel convogliare aiuti verso i paesi poveri. L'Italia in particolare è rimasta un po' indietro. Come si può migliorare l'efficienza di questi aiuti? Sì, la nuova regola del giorno è che tutti hanno capito che non possiamo più distribuire risorse senza verificare il risultato finale. Quindi meccanismi di controllo, come dire, percorso delle risorse, dal momento in cui si decidono al momento in cui si spendono, e si devono spendere nei territori interessati con la collaborazione dei paesi interessati, non facendo un assegno in bianco magari a questo o quel governo e poi non controllando cosa si fa con queste risorse. La seconda linea di azione è di prendere misure che favoriscano lo sviluppo locale. L'Italia ha fatto una proposta su cui la Banca Mondiale con noi sta lavorando, che è quella di dimezzare il costo delle rimesse dei migranti. Se questo costo fosse dimezzato, come noi vogliamo, in 5 anni, arriverebbero ai paesi in via di sviluppo ogni anno 15 miliardi di dollari in più, che è evidentemente una cifra enorme. Il nostro paese resta indietro rispetto agli altri paesi industrializzati in termini di aiuti. Ecco, qualcuno dice che c'è una contraddizione. Il governo Berlusconi vuole migliorare molto i rapporti economici anche con paesi emergenti, ma d'altra parte se noi diamo meno aiuti rispetto ai nostri concorrenti, ecco che anche le aziende italiane si trovano in una posizione così di svantaggio. È vero? E cosa può fare il governo a questo proposito? Noi già da quest'anno invertiamo il trend negativo, c'è stata una riduzione progressiva negli ultimi 2 anni, quest'anno riprendiamo a salire col volume complessivo dell'aiuto allo sviluppo. Questo vuol dire dare un segnale e vuol dire però anche concentrarsi sulle collaborazioni che non solo il governo centrale ma anche gli enti locali e i privati possono dare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ho scelto Chelsea Mornings nell'interpretazione di Judy Collins. Questa è stata la canzone che ha seguito la storia d'amore, l'avvio della storia d'amore fra Hillary e Bill Clinton, e questa canzone è talmente piaciuta ai coniugi Clinton che poi hanno chiamato la figlia appunto Chelsea. Chelsea Morning è stata ispirata dal Chelsea Hotel sulla 23esima, un albergo meta di artisti, un albergo storico. Ecco Chelsea Morning. I woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window, and the traffic rolled. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.